La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Accogliere, ascoltare, fare propria un'armonia. La storia di North Garden ruota attorno a questi movimenti. Una vita normale nella quale a un certo punto entra prepotente la musica. Un ragazzo con la chitarra, come tanti in Europa, una passione sfrenata per Bruce Springsteen e la voglia di risolvere un nodo, un abbandono. Con questo bagaglio, Terje inizia a suonare e comporre, ritrovandosi, nel giro di poco, acclamato da pubblico e critica in Norvegia. Ma tutto questo non basta. Sì, sicuramente il mio percorso è stato molto creato da vari pilari musicali nella mia vita. Cioè, con Bruce Springsteen avevo 14 anni, allora mi sono proprio aperto gli occhi verso il rock and roll, l'impatto, la magia della musica, la forza. Poi ho scoperto Motor Psycho, che sono un gruppo norvegese, sì. Magari più l'aspetto rock psichedelico, e poi ho scoperto Jeff Buckley, e lì ho scoperto proprio la potenza della voce, no? le possibilità, il potenziale della voce di espandere, di giocare. E poi così piano piano ho conosciuto un sacco di musica e cerco di trovare la mia voce, trovare la mia espressione, però anche con ogni disco cerco di espandere e fare qualcosa di diverso. Infatti ogni disco secondo me dovrebbe avere la sua storia, la sua espressione. Infatti ora sto lavorando su un nuovo disco, cercando di capire come vestirlo. E hai detto prima che fai molti concerti, infatti sei molto amato anche all'estero, non solo in Italia, in Francia, in Germania. E in Norvegia invece come sei? Sei amato o no? Perché di solito si dice, no, nemo profeta in patria. Ma ci suono ogni tanto, però sono tempi ancora più difficili oggi, no? Proprio di espandere, di conoscere, farsi conoscere. Con l'internet vieni bombardato, non basta che tu apri il tuo pagina Facebook e ti vengono 50 inviti al giorno minimo. Quindi non è una risorsa internet per farsi conoscere? Sì, è sicuramente una risorsa, però viene, secondo me, ha perso un po' il suo valore perché viene stra-utilizzato, stra-abusato come canale, e non ha più l'effetto, secondo me, che magari l'aveva all'inizio. Sì, sicuramente ti dà possibilità di connettere con la gente, però è anche un modo di perdersi, di confondersi, sì. Se uno non sa navigare bene, no? È come camminare magari nella città senza vedere bene dove cammini, così. Però alla fine del discorso della Norvegia, c'è un piccolo pubblico anche là, diciamo, non è sempre un percorso così, infatti apprezzo quello che ho, andiamo avanti, vediamo cosa succede prossimamente. Senti, volevo chiederti, tu sei del 74, vero? 78. 78? Sì. Sì, ho fatto male i calcoli mentre dicevo. cioè, quando tu hai iniziato, cioè, innanzitutto volevo sapere com'era la tua famiglia d'origine, com'è stata la tua infanzia in Norvegia, cioè, chi eri tu da bambino? Ho avuto la sfortuna che mio papà se n'è andato quando avevo 4 anni, quindi cioè, forse era una fortuna, forse era una sfortuna, non si sa mai, no? Cioè, se fossero rimasti insieme, chissà. E lui ha sempre fatto il marinaio, diciamo, quello che andava per mesi, viaggiava, lavorava. E sicuramente qualcosa mi è rimasto dentro di lui, sia nel sangue, magari di tradizione anche quasi. E lì è rimasta anche una mancanza di una figura paterna, no? Infatti a 14 anni, quando ho scoperto Bruce Springsteen, lui ha un po' riempito quello vuoto che sentivo là. Una figura paterna che ti raccontava le storie, che proprio ti faceva sentire un calore, sentirti appartenente a qualcosa, no? Perché tu non l'hai mai più visto da 4 anni? Sì, sì, ci siamo visti ogni tanto, però molto disperso così, sì. Dispersivo così, diciamo. Non quel legame che uno magari sogna di avere con un proprio padre. Cioè, lui sicuramente ha le sue ragioni anche per la mancanza di avere essere stato insegnato dai suoi genitori, una vecchia generazione. Suo papà è stato ucciso dai tedeschi durante la guerra, quindi ha perso le figure paterne, la mamma non si è presa responsabilità, quindi lui non è mai stato insegnato di amare, di come amare, come prendere responsabilità, forse anche sempre sfuggito. Quella di Nordgarden è una storia che ha tante prime volte. Quella che vogliamo raccontarvi ha a che fare con il nostro paese, con certe serate bolognesi, trascorse tra studenti e musica, tra sogni, ideali, voglia di andare, bisogno di stare. E a Bologna, in via Zamboni, che ha inizio l'avventura italiana di Nordgarden. Allora avevo finito il mio servizio civile a Oslo, lavorando in un asilo. Invece di andare in militare sono andato a lavorare in asilo per 14 mesi a Oslo, e dopo dicevo volevo fare qualcosa completamente diverso, uscire, farmi un'avventura così, anche musicalmente. Quindi avevo due idee: o Londra o Bologna. A Oslo avevo conosciuto un ragazzo di Mantova che studiava a Bologna, quindi avevo un aggancio lì. E mi è sempre piaciuto un po' fare il contrario delle scelte solite, quindi pensavo va bene, cioè vado più distante, più lontano, una cultura molto diversa dalla mia, una lingua molto diversa. Invece magari Londra sarebbe stato un po' sempre Nord Europa, no? E quindi ho scelto quella strada più difficile magari, però anche più gratificante da tanti punti di vista. Mi sono aperto un mondo nuovo per me, diciamo. Quando sei arrivato a Bologna, poi cosa hai fatto? Cioè, come prima fase, diciamo, d'arrivo, hai studiato, hai continuato a comporre, basta? Come è andata? Mi sono, diciamo, trovato una casa lì tramite mio amico, e ho portato un registratore per registrare. Ho iniziato a comporre subito, tanta ispirazione, tanti nuovi profumi, atmosfere, diciamo. Anche iniziato a suonare subito per la strada, in via Zamboni, la via degli studenti, perché non avevo tanti contatti, non sapevo dove suonare, quindi pensavo va bene, buon inizio. Comunque passavano un sacco di studenti da là, e piano piano ho conosciuto più persone che mi hanno dato dei consigli dove magari suonare nei locali. Poi piano piano, suonando nei locali, anche si è allargata un po' la cosa, sì. Si è allargata molto, perché tu sei molto amato anche da un gruppo di cantautori italiani che sono riconosciuti per un grandissimo talento, Cristina Donà, tantissimi altri, Marta Suitubi, insomma ce ne sono tante di persone che ti hanno aiutato, ma anche ti sostengono dal punto di vista artistico. Mm-hmm. Sì, infatti è stato un bel percorso. Comunque dopo Bologna ho conosciuto Paolo Benvenu, un altro grande cantatore italiano, che mi ha invitato a venire a Firenze a registrare il mio primo disco. E quindi ho vissuto anche 2 anni là. E così piano piano, tramite Paolo, tramite vari giri di musicisti, ho conosciuto, come dici tu, Cristina Donà, Marco Parente, Matteo Suitubi, Claudio Rocchi, l'ho conosciuto in Sardegna. Quella di Nordgarden è una storia che ricorda quella di tanti ragazzi, è la storia del rock, della musica in generale, di un bisogno che accomuna tanti artisti. Una storia che così spiega T-Bone Burnett, musicista e produttore americano. Il rock sta tutto nel grido «Daddy, papà!». È un urlo imbarazzante, è il voler dimostrare ai propri padri che i loro figli valgono, che sono degni di attenzione. Forse Bruce Springsteen è il primo ad ammetterlo, ora che ha varcato la soglia dei 60 anni, ora che anche lui è un maturo padre. Il rock è questo grido, contraddittorio quanto si vuole, cosciente di un tempo che è fuggito, dominato da incomprensioni e solitudini. Perché il rock nasce da una frattura, da una rivalsa tra generazioni che non si sono mai capite, se non forse di fronte alla malattia e alla morte. Il rock è musica di un'assenza, dell'assenza del padre, e contemporaneamente il desiderio di essere accolti da un padre. Un percorso però non lineare, pieno di egoismo e di violenza, spesso autodistruttiva. È l'esperienza di un Icaro che brucia le ali di cera, volendo avvicinarsi al sole, senza umiltà, ponendo davanti il proprio io totalizzante, incapace di relazioni se non attraverso la musica. Non si spiega il rock, non si capisce il rock solamente dai suoni e dalle parole, si capisce se ci si immerge nelle storie dei suoi interpreti, la loro sfida alla generazione precedente, quella dei loro padri che li odiavano perché non capivano la loro contestazione. Oggi Nordgarden festeggia i 10 anni in Italia con il disco dal titolo 10, che raccoglie 10 riletture di brani in italiano scritti da artisti amici che in questi anni lo hanno sostenuto, apprezzato e amato per la sua infinita bravura. Vi lasciamo ad ascoltare un brano di questo artista norvegese e ci sentiamo tra pochissimo. E ho perduto tutta quanta la morale. Cosa c'era da fare in mezzo al temporale? Mi son già scordato di quel patronato dove mi hai incontrato tu. Che già lo sai che non è la California. Comunque vada qui ogni strada porta al mare. Un pare, il meglio deve ancora arrivare. La prima volta. Se penso alla maniera di amarti, solo semplicemente lontana è la mia mente. Prima di toccarti con le dita di pietra, immersi in una realtà diversa. Quella di Nordgarden è la storia di un ragazzo, di una mancanza, quella del padre, del bisogno di dare forma a un progetto di vita che ruoti attorno all'armonia, una ricerca che approda in Sicilia, ad Aci Trezza. Sì, è stata una bella storia e quindi l'anno scorso volevo fare qualcosa di diverso, passando 10 anni, volevo fare una cosa che ho pensato da anni di fare, un omaggio sia all'Italia, ai miei amici qua in Italia, anche un tentativo mio di cantare in italiano. Ed è venuto fuori l'album che si intitola 10. Sì, che comunque ha un filo rosso, il filo rosso è 10. 10 anni, passate il primo disco, 10 anni. 10 artisti italiani che ho conosciuto personalmente, 10 canzoni di loro. Quindi sì, un giubileo, un anniversario, un ringraziamento, diciamo. Senti, perché alla fine di tutto questo percorso, anche attraverso l'Italia, questo viaggio attraverso l'Italia per città, hai deciso di fermarti proprio a sud, a Catania? Mi mancava il sud, cioè avevo fatto un po', diciamo, il nord e il centro, era il momento di anche provare a viverci il sud. Ho sempre avuto un amore per il sud, anche Napoli, Puglia, Sicilia, comunque ancora più sentita magari. Il nord dell'Italia magari più, come si dice, contenuta, più un poco più rigida forse, invece lì è un po' più matta, un po' più incasinata la situazione, che sicuramente rende più difficile la vita per certi versi anche, però ti... allegra anche. Cioè, rallegra, sì. Rallegra, giusto. Cioè, ti colora un po' più la vita magari, più sfumature, più complicata però più sfumature, più profumi forse della vita anche. Ma per un norvegese, ad esempio, arrivare a stare a Catania, che cosa significa? Cioè, a cosa rinunci tu ogni giorno se rinunci a qualcosa da norvegese stando a Catania? Catania è bella, carica, diciamo, per fortuna vivo a Aci Trezza, per essere precisi, così diciamo un po' fuori, ho scelto di vivere in un posto più tranquillo, perché Catania è una piccola Napoli, è un po', per i miei gusti oramai ho 35 anni, mi piace una vita un po' più ritirata, un punto, visto che viaggio molto, faccio più di 100 concerti all'anno, sono sempre in giro, in tante città, mi piace vivere in un paesino come questo villaggio di pescatori di Aci Trezza, che si trova molto pace, molto tranquilla, puoi andare tutto a piedi, conosci il macellaio, l'alimentare, il pescivendolo. Sei stato accolto, diciamo, dalla comunità di Aci Trezza. Sì, dai, sono quello biondo, quello norvegese che si vede in giro per il paese. Ma non ti prendono per uno strano che ha deciso dalla Norvegia di vivere ad Aci Trezza? Non te lo dicono? Sì, forse. Sicuramente non me lo dicono, sicuramente me lo... Mi prendono un po' per uno strano, un po' per un mezzo matto, però allo stesso tempo sembrano anche affascinati, affezionati anche, perché comunque anch'io sono un sorto di sfumatura, colore, a ad arricchire anche la piccola comunità di Aci Trezza, e quindi chissà, ci regaliamo varie cose, diciamo. Tu sei stato paragonato anche dai critici a autori, artisti come Jeff Buckley e comunque grandi cantautori della scena americana. Questa cosa ti fa piacere? Stai cercando di evolverti rispetto a questo genere? Cioè, con Bruce Springsteen avevo 14 anni, allora mi sono proprio aperto gli occhi verso il rock and roll, e poi ho scoperto Jeff Buckley e lì ho scoperto proprio la potenza della voce, no? E poi così piano piano ho conosciuto un sacco di musica e cerco di trovare la mia voce, trovare la mia espressione. Norgarden è un musicista norvegese affermato in Olanda, amatissimo in Francia e Germania, ma che ha scelto l'Italia, la Sicilia, per stare. Ed è all'Italia che questo meraviglioso artista dedica il suo ultimo album, la sua prima volta in italiano, un album dal titolo 10, come gli anni trascorsi in Italia. Le canzoni sono tutte brani di amici artisti che hanno condiviso con lui questa strada di ricerca, canzoni bellissime che avrebbero meritato più attenzione e che troppo in fretta sono andate via, stritolate da un mercato della musica talvolta imbarazzante nella scelta che fa. Un album 10 che rivela la bravura di questo musicista norvegese riscaldato dal sole di Aci Trezza, dove ormai vive con la moglie e la figlia da anni, un posto che aiuta anche a riconciliarsi col proprio passato. Ho avuto la sfortuna che mio papà se n'è andato quando avevo 4 anni, quindi cioè, forse era una fortuna, forse era una sfortuna, non si sa mai, no? Cioè, se fossero rimasti insieme, chissà. Perché tu non l'hai mai più visto da 4 anni? Sì, sì, ci siamo visti ogni tanto, però molto disperso così, dispersivo così, diciamo, non quel legame che uno magari sogna di avere con un proprio padre. Per certi versi va bene anche così, cioè sono cose che ti hanno creato come sei oggi magari, sì. Cioè ti hanno dato una strada e in qualche modo hai avuto delle difficoltà che devi affrontare, o precipiti o ce la fai, nel senso, e quindi... Ma tu, per esempio, cioè, hai parlato della capacità di amare. Tu da questa esperienza hai avuto invece il dono, insomma, la voglia di poter amare, di saper amare? O... Certo, cioè, mia mamma è stata molto brava, ha avuto dei nonni sempre presenti, quindi è stato molto bello comunque. Cioè, ho avuto delle persone che sono state lì per me, poi piano piano sono riuscito a prendere in mano anche io tramite la musica, ho trovato identità, sono trovato me stesso e... prima della musica mi sentivo perso, non sapevo cosa fare, cosa ero, e invece tramite la musica ho sentito una forza interiore e anche una identità che è molto importante in quell'età lì, no? Adolescenza ti senti perso, trovi una cosa che ti dà forza. E qual è stato lo strumento che hai imparato a suonare per primo? Certamente la chitarra, sì. Così, Bruce Springsteen con la chitarra acustica. Ho comprato anche un Telecaster così per... All'inizio infatti facevo delle canzoni ridicole proprio di come andare in giro con la macchina, avevo 14 anni, figurati, da qualche parte a casa ci saranno delle piccole cassette così, diciamo, di queste canzoncine molto Bruce Springsteeniane. Ma te le ricordi? Cioè, infatti una delle domande che avevo scritto era se ti ricordavi la prima canzone che hai suonato, che hai scritto. Non mi ricordo bene, però sarà qualcosa così che... con le macchine, la strada, il sogno del futuro, qualcosa di solito springsteeniano. Mi è sembrato molto di sentire tanta America nella tua musica, no? E in America non ci sei mai andato? Ci sei andato? Ci sono andato, sì, sì. Ci sono andato 3-4 volte a suonare New York, Philadelphia, Boston, quella zona lì, Northeast. E poi sono andato California, Nevada, anche Canada più volte. Però è la stessa storia, è dura. E l'essenza in generale, secondo me, per riuscire a farci qualcosa deve avere delle conoscenze, persone. America è enorme, 300 milioni di abitanti, 51 stati, e quindi è come l'Europa, no? Cioè sono, sì. è un paese, però sono 50 stati, cioè sono 50 paesi. E quindi è enorme, quindi devi per forza conoscere qualcuno. Ci puoi andare a suonare divertiti così, però è molto difficile riuscire a fare qualcosa in più. E quindi è un po' faticoso farlo perché è enorme come geograficamente anche, ed quindi è lunghi spostamenti. Sì. Quindi ho deciso qualche anno fa di concentrarmi più su Norvegia, Germania, Olanda, Italia per ora, perché principalmente lavoro da solo sulle cose, cerco di aggiungere altre persone in ogni paese per ampliare, però sì, è un lavoro molto diverso dal solito, no? Perché devi spargere te stesso, cioè dovresti lavorare 30 ore al giorno per riuscire a fare tutto quello che si dovrebbe fare. Cioè, tu dici anche proprio per promuovere te stesso. Sì, cioè spesso magari sono 8 ore al giorno al computer invece di stare 8 ore a suonare la musica. Quindi io penso per un buon 80-90% degli artisti, se vuoi farcela sia nella pittura che con la musica, devi sapere fare marketing, devi promuovere te stesso, un minimo tramite Facebook, mail list, questa roba qua, e fare il giro di tutti i locali, tutti i posti in cui puoi esibirti, la stampa, eccetera, così. E quindi ovviamente c'è un monte di lavoro. E immagino per tanti artisti deve essere molto anche duro, cioè è duro anche per me. Perché alla fine sei fatto per fare l'arte, no? Vuoi creare, vuoi mettere tutta la concentrazione sull'energia creativa, invece devi fare molto burocrazia per riuscire a farcela. Sì. Lo sai cosa penso? Quella di Norgarden è la storia di un pezzo di musica, è la storia di tanti artisti che, e non è un caso, sono anche amici tra loro. Benvenu, Cristina Donà, Marco Parente, Marta sui tubi, Grazia Di Michele. Questa è anche la storia di un pezzo d'Italia. E con questo ci salutiamo. Ci potete scrivere all'indirizzo la prima volta at radio24.it oppure potete seguirci all'indirizzo Facebook Radio 24 la prima volta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli, ci sentiamo la settimana prossima, sempre di domenica, sempre alle 13.30. La luna è liquida ed io mi sento invisibile come sempre. Quando è tardi per dire che non sopravvivo,